Quando si parla di timidezza, mi viene immediatamente in mente il mio carattere timido e gli enormi sforzi per vivere normalmente come tutti. È vero che ognuno di noi, anche il più sicuro, in fondo è un po' timido, ma la mia timidezza era prodotta da un'infanzia che non mi ha aiutato per nulla a compiere sforzi per vincere questo stato d'animo, e questo lo possono comprendere maggiormente coloro che come me hanno vissuto l'adolescenza in un collegio. Un collegio è un luogo nel quale si permette ai ragazzi o ragazze di crescere fisicamente e moralmente sotto la guida di vari responsabili, dove si ha una istruzione, dove si è curati in mille modi e mille maniere, ma non vi è un vero contatto con le molteplici e impreviste realtà della vita. Perciò la crescita psicologica e morale non è adeguata alla realtà che in seguito ogni ragazzo dovrà trovare nella quotidianità della sua esistenza. Rimanere in un collegio per vari anni fino all'età della pubertà non è cosa da poco. Anche se 3 mesi all'anno tornavo a casa per stare con mia madre, quei mesi erano però troppo pochi per comprendere come fosse la realtà della vita intorno a me. Vivendo per lo più in un collegio, la mia unica preoccupazione era quella di cercare di stare bene fisicamente, di essere diligente e osservante alle regole stabilite. Il resto non era competenza mia. Se da qualche parte del mondo ci fosse stata la guerra, avvenimenti dolorosi o felici del mio paese, parenti che morivano o nascevano, com'era il costo della vita, erano notizie che non mi coinvolgevano più di tanto. Sia perché il direttore del collegio non era chiamato ad informare i ragazzi, sia perché mia madre non riteneva opportuno riferirmele, e anche perché io non sapevo di dover avere dell'interesse per ciò che succedeva fuori dal mio mondo. Perciò, quando ebbi terminato la terza media, il successivo impatto con il reale fu inevitabile e prevedibile. Pieno di problemi, di complessi, di paure, mi uniformai presto alle regole sociali perché avevo capito che se volevo vivere in armonia con gli altri, dovevo accettare i principi e i metodi della società. Cominciai così ben presto a fumare, a bestemmiare, a partecipare alle ragazzate con i miei compagni e a concupire senza freno ogni cosa. Iniziai anche a frequentare le sale da ballo, che divennero per me una vera passione. Due cose ancora oggi ho presente del periodo della mia pubertà: l'ignoranza totale dei paesi vicini e il mio grandissimo imbarazzo nel guardare una ragazza negli occhi. Non è molto simpatico sentire parlare di luoghi e non conoscerne non solo l'esistenza, ma neppure la collocazione, come non era affatto bello durante gli inevitabili incontri con le ragazze sentire un turbinio di emozioni, sudore, affanno e tremore causato dalla mia timidezza. La timidezza viene definita quell'atteggiamento abituale di chi è poco sicuro di sé, è quel modo incerto di agire per soggezione o per timore del giudizio altrui, perciò è più che normale, o addirittura doveroso nella vita essere timidi. Poiché le circostanze della vita sono per tutti inizialmente nuove e spesso imprevedibili, nessuno può trovarsi sempre sicuro e deciso, e un poco di imbarazzo è inevitabile. Con una differenza: se l'imbarazzo o il timore del giudizio altrui si provano al momento giusto, cioè quando si è bambini, è naturale come lo è imparare a camminare. Quando si ha un anno di vita, diventa invece un problema, o crea un problema, imparare cose ad un'età diversa dalla norma. Quando ero bambino, il solo fatto di andare dal negoziante produceva in me una agitazione interiore non indifferente, al punto che lungo il cammino mi ripetevo più volte ciò che dovevo dire. Ma se questo atteggiamento lo possedessi ad un'età adulta, evidentemente vi sarebbe qualcosa di anomalo. Sono le cose abitudinarie a rendere più sicuri, perché ormai se ne conosce la prassi, perciò trovarsi nel conflitto della timidezza il più delle volte significa che si sta affrontando una cosa nuova, e situazioni nuove ad un'età adulta dovrebbero essere rarissime. Ecco perché è normale che un bambino che si affaccia alla vita sia timido, mentre non lo dovrebbe essere per un adulto, perché a quell'età si presuppone abbia già superato le varie e infinite esperienze della vita, perché l'età delle sorprese è terminata, perché allora la timidezza accompagna per lo più molte persone adulte nel corso della loro vita, perché a volte sono timido e mi trovo molto imbarazzato, quando non dovrei esserlo. Non è facile rispondere a queste domande dato che sono molteplici le ragioni, spesso anche derivanti dall'inconscio, ma si possono individuare degli elementi comuni a tutti. La prima ragione per la quale ci si comporta da timidi meno, come abbiamo detto meno, è trovarsi in situazioni nuove, e va da sé che non sapere come comportarsi o comportarsi da timidi è più che normale. In merito ripenso sorridendo ad un episodio della vita dello scrittore apologeta cristiano, Clive S. Lewis, quando per la prima volta andò a dormire con sua moglie, una donna molto ammalata. Lewis aveva 58 anni, un'età nella quale avrebbe dovuto avere superato ogni sorpresa, anche perché aveva avuto in gioventù esperienze con altre donne. Istintivamente Joy, sua moglie, capì ciò che suo marito stava pensando e provando. Per lui, vissuto da scapolo sino allora, era tutta una novità. «Ti senti strano?» gli chiese a bassa voce. Lewis annuì. «Non sono completamente sicuro della procedura», confessò. L'imbarazzo o la timidezza dello scrittore così rigorosamente intellettuale erano evidenti e sua moglie meno, come sa fare una donna con il suo intuito femminile meno, lo mise a suo agio dicendogli di comportarsi come si era sempre comportato e di andare a letto, e aggiunse, solo che quando arriverei alla fine ci sarò anch'io qui. E questa è la procedura. Dal libro Viaggio in Inghilterra di Leonor Fleischer. E un dono di Dio, quando si è timidi trovare qualcuno che ti comprende e ti aiuta. Vi è però una timidezza dalla quale tutti dobbiamo guardarci, e cioè quel modo incerto di agire per timore di essere giudicati, perché la timidezza è la sorella minore dell'orgoglio. Infatti, se uno non dovesse rendere conto a nessuno, non avrebbe problemi commettere errori, anche perché siamo tutti coscienti di non essere perfetti. Ma poiché nel profondo del nostro essere alberga il desiderio di essere accettati e stimati, poiché si teme la condanna altrui, ecco nascere la timidezza o l'imbarazzo di come comportarsi. Essere timidi le prime volte che ci si deve mostrare davanti ad un pubblico è una cosa normale, ma quando questa timidezza è sempre presente costantemente ogni volta che ci si presenta davanti ad una platea, allora è il momento di esaminarsi per vedere su quale lato del carattere si teme di essere giudicati. Forse si ha paura di sbagliare, e questo orgoglio bello e buono, perché sbagliare è umano e nessuno deve vergognarsi di commettere degli errori. O forse si ha vergogna di esprimere ciò che si pensa, come nel caso di un credente che si vergogna di testimoniare ad altri della sua fede. Ho ancora vivo il ricordo di quando, appena diventato figlio di Dio, sono andato ad un raduno dove c'erano centinaia di credenti i quali dedicarono l'inizio della giornata a un tempo di preghiera. Iniziarono a pregare delle persone anziane con tempi di silenzio, molti imbarazzanti, e io capivo che questi aspettavano i giovani che vincessero la loro timidezza per elevare la loro voce in preghiera. Io desideravo pregare, ma avevo il cuore in gola, ero sbattuto da una tempesta di vari sentimenti quali la paura, la vergogna e l'imbarazzo, ma poi mi feci forza e vinsi con una preghiera la mia timidezza. Subito dopo, una persona anziana di età incoraggiò i giovani a pregare, prendendo me come esempio perché aveva notato la mia timidezza, ma altresì anche il mio desiderio di volerla vincere. Siamo tutti propensi a affermare che l'orgoglio è l'atteggiamento più deleterio che esista, ma dobbiamo anche renderci conto che si può vincere solo come lo ha vinto Gesù Cristo, e cioè disprezzando il disprezzo, Eb 12.1-3, il che vuol dire non lasciarci condizionare dal giudizio sprezzante altrui. Anzi, si può parlare nell'ambito della fede cristiana di fede solida, di uomini maturi, di testimoni adatti, solo quando si è imparato a vivere nell'umiliazione e nel disprezzo, quando non vi è più nessun onore da difendere o da acquistare. Nel libro dei Proverbi sta scritto: «La paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro». Proverbi 29:25. La timidezza è una forma di paura che si può vincere solo essendo costantemente motivati dal desiderio di piacere innanzitutto a Cristo Gesù. Se per noi la timidezza è uno degli argomenti principali, nella parola di Dio questo termine è presente una sola volta, e precisamente in una promessa grandemente importante per i figli di Dio. e che è essenziale considerare nel contesto della lettera scritta da Paolo al figlio spirituale Timoteo. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre. Eunice, per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. 2 Timoteo 1.57. L'Apostolo Paolo ricorda a Timoteo che la sua fede non era una novità recente, ma che essa abitava sia in sua madre sia in sua nonna, e poiché la lettera fu redatta negli anni tra il 65 e il 67 d.C., è anche possibile che la nonna di Timoteo avesse udito parlare personalmente Gesù e ponendo di conseguenza fede in lui, senza intermediari. Questo spiega perché Paolo citi non solo la fede della madre ma anche della nonna, e anche se non fosse così l'Apostolo mette in evidenza che la fede di Timoteo ha un grande valore. Proprio perché chi ha posto fede in Cristo possiede la fede più preziosa di questo mondo, Paolo ricorda a Timoteo di non trascurare il dono avuto da parte di Dio al ricevimento dello Spirito Santo perché, come tutti i credenti, egli ha ricevuto uno spirito non di paura o incerto nell'agire per soggezione o per timore del giudizio altrui, ma uno spirito di forza e di coraggio, unito all'amore, all'autocontrollo o disciplina e saggezza. In definitiva, Dio ha equipaggiato i suoi figli di tutto il necessario per essere in questo mondo una testimonianza dell'amore e della potenza di Dio. Infatti, quando leggiamo la vita di tanti figli di Dio che anche da soli hanno saputo sfidare autorità religiose e civili, sappiamo che hanno agito non spinti da una loro capacità ma dalla persona dello Spirito Santo che operava in loro. Gesù lo disse chiaramente: guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re, per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. EMT 10.1720. Questa è una promessa per tutti, ma soprattutto per i timidi e, accettata per fede, li rende forti e coraggiosi non perché non sono più timidi, ma perché non guarderanno più ai loro limiti e incapacità, ma ai doni ricevuti abbondantemente in Cristo Gesù. Non vi sono altre vie per vincere la timidezza. Giugno 2007. Ellero.